ma non speranche mai, mai, mai, al solo, solo fuoco dei tuoi lucenti rai. Ma mio cor, mai, mai, mai, mio cor. Vorresti amor da me, da me? L'avrai, l'avrai, ma non speranche mai, ma non speranche mai, al solo, solo fuoco dei tuoi lucenti che sentirai. Mai, mai, mai, lucenti che vorresti, amor, ma non sperar che avrai il mio cor. Mai, mai, mai, mai, mai, mio cor. Inganni se lo vedi, se cerco se lo vedi, che io contento non sono solo amore. Inganni non vedi, se cerco non vedi, che io contento non sono solo amore. Che io contento non sono amore. Vorresti amor da me, da me, da mai, da mai, ma non speranche mai, mai, mai, al solo, solo fuoco dei tuoi lucenti rai. Dai mio cor, mai, mai, dai mio cor. Vorresti amor da me, da me, l'avrai, l'avrai, ma non speranche mai, ma non speranche mai, al solo, solo fuoco dei tuoi lucenti, lucenti rai. Mio cor, mai, mai, mai, lucenti rai vorresti, amo, non speranche mai, mio cor, mai, mai, mai, mai, mai.